figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Bentrovati da Valentina Furlanetto. In occasione della campagna Ottobre piovono libri, sostenuta da Radio 24, che ha come obiettivo promuovere la lettura, anche noi oggi vogliamo parlare di lettura e di libri. A Monza esiste una storica biblioteca che si chiama la Biblioteca Italiana dei Ciechi. È chiaramente un luogo per persone non vedenti ed è conosciuta in tutta Italia perché fornisce libri e volumi non solo agli utenti lombardi, ma a tutti i ciechi e ipovedenti sul territorio nazionale. Fra i vari servizi che offre, anche la trascrizione in braille dei testi scolastici degli studenti che non ci vedono. Sempre da Monza poi partono ogni giorno pacchi di libri diretti in tutta la penisola, libri che fanno compagnia, divertono, istruiscono, riempiono la giornata centinaia di persone cieche. Sono 70.000 i volumi che la Biblioteca Nazionale offre a 6.000 utenti italiani. Oggi però tutto questo è a rischio. Il perché ce lo spiega Massimiliano Cattani, che lavora proprio alla Biblioteca Italiana per Ciechi di Monza. La biblioteca è nata più di 80 anni fa a Genova per volontà dell'Unione Ciechi e si è poi trasferita prima a Milano e poi a Monza. Il suo compito è la messa a disposizione, quindi la trascrizione e la messa a disposizione per le persone minorate della vista di libri in formato accessibile per l'appunto alle persone che non vedono, quindi prevalentemente libri trascritti nel sistema braille e poi anche libri a caratteri ingranditi per le persone ipovedenti oppure libri su supporto informatico per coloro che invece che leggere il braille cartaceo amano invece utilizzare il computer con le periferiche che permettono, che sostituiscono il video sostanzialmente, quindi che permettono al non vedente di ascoltare in voce quello che i vedenti invece vedono sullo schermo. Adesso tutto questo è a rischio. Cosa sta accadendo? Ciò che sta accadendo è che il governo ha operato dei consistenti tagli al finanziamento di cui gli enti, diciamo l'Unione Ciechi, gli enti per le persone minorate della vista e in particolar modo la biblioteca fruiscono, perché la biblioteca vive grazie per l'appunto ad un contributo statale che è stato fortemente ridotto dai 4.400.000 euro di cui fino a poco fa godevamo. Ce l'ha ridotto di 1.300.000 euro, un taglio del 35% circa. In pratica questo che cosa comporta? Questo comporta non al momento la chiusura, però comporta sicuramente ad una forte riduzione dei servizi in favore dei nostri utilizzatori, quindi ridurre drasticamente le opere trascritte, i testi scolastici che noi trascriviamo per i nostri utenti, perché prima non ho avuto occasione di dire che oltre che incrementare il nostro patrimonio di letture generali, una nostra funzione è anche quella di trascrivere i testi che servono agli studenti che frequentano le scuole di ogni ordine e grado per poter frequentare appunto i loro corsi di studio. Ecco. Qual è la situazione per quanto riguarda i dipendenti? Sul fronte dei dipendenti sicuramente la situazione si presenta tutt'altro che rosea, molto probabilmente si sarà costretti per l'anno prossimo a chiedere un intervento di cassa integrazione in deroga che non si sa se verrà accettato o no, e comunque quando anche fosse accettato di sicuro non è una prospettiva allegra. E c'è poi da dire che io adesso ho parlato di questo taglio del 35%, che però se la rotta non verrà invertita nell'arco dei prossimi anni potrebbe arrivare anche a raggiungere il 44%. Il vostro timore finale è che la biblioteca venga chiusa? Certo, anche se non è una prospettiva immediata, ma se andiamo avanti così il pericolo potrebbe farsi molto molto più vicino. Massimiliano, anche lei è non vedente? Io sono cieco assoluto, sono non vedente totale. E quindi oltre che dipendente anche un utente della biblioteca? Ma io ho usufruito della biblioteca praticamente sempre, fin da quando ero piccolo, ho sempre amato la lettura, e quindi la biblioteca è stata ed è a tutt'oggi per me uno strumento importantissimo. Io il sabato e la domenica, quando non ho niente da fare, quando non ho altri impegni, comunque amo leggere, ed è proprio grazie alla lettura che io ho potuto avere quel poco tanto di formazione che posso vantare, ed è grazie alla lettura che io sono quello che sono, insomma. E continuiamo a parlare di libri. È fra i 6 finalisti del premio Tondelli 2009 per i giovani scrittori italiani il volume Babele 56, pubblicato da Terre di Mezzo Editore. È un viaggio sull'autobus numero 56 di Milano che percorre una delle zone più multietniche della città. 8 capitoli, 8 fermate per altrettanti volti, professioni, storie. Si va da Karkadan, rapper tunisino, a Kamal, che in Sri Lanka era un giocatore di cricket professionista e a Milano è custode in un condominio. Ma che cosa ha di diverso questo libro sugli immigrati rispetto ai tanti volumi che vengono pubblicati di recente sul tema? Lo abbiamo chiesto all'autore Giorgio Fontana. Fin dall'inizio io non volevo fare appunto il solito libro sugli immigrati, volevo fare un libro che raccontasse 8 storie, quindi che non avesse nessun sapore cronachistico, ma fosse innanzitutto un libro appunto da scrittore, cioè un libro che andasse ad affondare proprio le mani nella carne della storia. In secondo luogo volevo un libro che non fosse soltanto sugli immigrati, ma sul rapporto fra la città e gli immigrati, quindi Milano e gli immigrati, e il modo in cui la loro vita cambia approdando a Milano e il modo in cui Milano cambia con il loro intervento, la loro rimappatura della città. Mi sono limitato alle storie, a fare una selezione delle storie che ho incontrato. Poi sa, l'idea era anche un po' quella di mappare soprattutto il lavoro immigrato a Milano, oppure l'integrazione attraverso la musica o altre cose. Ma lo dico subito a prefazione, non voglio fare un discorso esaustivo sull'immigrazione a Milano. Sono 8 storie fra le tante. Senza voler fare la geografia di nessun tipo, per carità, né negare problemi reali che ci sono, in questo sia chiaro. La parte più bella, secondo me, del libro è quando racconta il fatto che alcune botteghe tradizionali di Milano, abbandonate dai proprietari milanesi, sono state rilevate proprio da immigrati che le hanno fatte rinascere, quindi una Milano che rinasce nelle mani degli immigrati. Sì, c'è una sorta proprio di scambio generazionale e di etnia, appunto, in cui vive in qualche modo magari una tradizione di bottega o anche solo di negozio milanese, di quartiere anche, ad esempio, che si è andata, a quanto penso io, totalmente perduta nel resto della città o parte dei milanesi tout court, e che invece rinasce sotto altra veste. Insomma, vivendo lì si respira veramente tanto l'aria del quartiere, con tutte le limitazioni e le difficoltà del caso, per carità. Però è un'aria viva, ecco, quella è la cosa interessante. È un luogo dove sono piantati i semi del futuro, in qualche modo. Poi resta a noi capire quali saranno o coltivarli nel migliore dei modi. Lasciamo i libri e parliamo di giochi e videogiochi. Giochi e videogiochi che fanno discutere e che lasciano perplessi sulle buone intenzioni di chi li produce. Ha debuttato infatti pochi giorni fa negli Stati Uniti una bambola che ha una particolarità che la distingue da tutte le sue colleghe. Gwyn, capelli biondi, una casa di bambola, non ce l'ha. È una bambola infatti senza tetto, commercializzata da American Girls, dovrebbe sensibilizzare il pubblico americano sul tema dei clochard. Solo a Los Angeles, lo ricordiamo, i bambini senza tetto sono circa 10.000. Ma i dubbi sono leciti, non solo per l'evidente cattivo gusto dell'iniziativa, ma anche perché il prezzo, $95 a bambola, è decisamente troppo alto per ipotizzare che il prodotto non sia sottoposto in realtà al marketing delle buone intenzioni. E tutto ciò a pochi giorni dalle polemiche scatenate in Gran Bretagna e Francia da un videogioco nel quale proprio si parla ancora di clochard. Chi sta alla console deve calarsi nei panni di un senza tetto. L'obiettivo finale è diventare talmente ricco da comprare un castello. Ma ciò che non è andato proprio giù alle diverse associazioni che si occupano di poveri è il fatto che la strada per uscire dalla povertà si percorra con piccoli furti, risse fra gang, combattimenti fra animali e ovviamente mendicando. Il gioco si chiama Dosser Game, gli utenti sono finora 2,2 milioni ed è stato condannato in questi giorni dalla Croce Rossa francese e dalla FENSA, l'ONG europea di difesa degli homeless. Ancora non c'è una versione italiana, ma davanti alla possibilità che ciò avvenga, anche in Italia diverse ONG hanno protestato. E questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con voi è per domenica prossima, l'augurio di una buona domenica da Valentina Furlanetto.